Pronto, pronto, ancora in diretta dal corteo, pronto, mi senti? Io ora mi sento malissimo, provo a raccontare. Racconta, sì, sì. Siamo su via del Tritone dove siamo arrivati dopo essere usciti da Montecitorio e aver essere riusciti a imboccare su via del Corso. Adesso ci hanno sbarrato la strada tra i blindati e da 10 minuti che c'è una pressione pesantissima nei confronti dei blindati con il corteo che mi sta praticamente assediando anche con fisicamente e anche con lanci di uova, di smorfie, eccetera, perché è un corteo che non vuole fare un passo indietro e che vuole arrivare a via della Stamperia a portare l'assedio alla conferenza Stato-Regione con province e comuni. Quindi sì, al momento la situazione è questa.